22:44. Prendiamo qui il cappuccetto del microfono. I dischi vengono tirati fuori. Anzi, 22:45, le frequenze, quelle di Radio Onda Rossa. E innanzitutto salutiamo Gigio, che però se n'è andato. No, no, non se n'è andato. È di là. Che nell'ottica del dono ci è venuto a regalare qualcosa. E noi lo ringraziamo. E poi non l'avevamo forse annunciato nemmeno. Comunque lo ha fatto Elettrodo prima di noi. Ce lo diranno loro, Barricate, tradotto almeno. Poi andremo a parlarne con loro stessi. Progetto parallelo di altre robe che girano così nel panorama romano e periferico. E poi DDM versione acustica suonano alla porta. Insomma, puntata di agosto, quando dovremmo andare tutti quanti in vacanza, invece c'è sta la penuria. Non c'è una lira, non c'è un euro. Voglia ce ne avremmo pure, penso, no? A voglia. E però si sta qua al caldo, un po' meno caldo qui negli studi della radio. Vabbè, dai, Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza sulla nella banda romana e laziale. È arrivato pure Mimmo. Dai, fatemi fare la presentazione come si deve. ...87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. www.ondarossa.info, il sito Radio Onda Rossa, che siccome che non fa pubblicità, non c'ha padroni, è una radio autogestita, non c'ha protettori o padrini politici. Ecco, Radio Onda Rossa si avvale del contributo di tutti e tutte voi che la sostenete, compagni e compagne. E quindi vi rammento il numero del conto corrente postale di Onda Rossa e anche le altre modalità per sottoscrivere la radio. 61 80 40 01, il numero del conto corrente postale da intestare a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00 85, Roma San Lollo. Invece, andando sul sito, andate a vedere su Sostieni e troverete tutte le altre lunghe e varie modalità per sostenere la radio. Sì, ho fatto pure il botto, la bottiglia, quando l'abbiamo appoggiata, si brinda. Vi dico il numero dell'SMS di Radio Onda Rossa: 342 357 4357, lo ripeto, 342 357 4357. Quindi, oltre ai soliti trilli, email alla casella di posta elettronica 25oclock@giustonumerossa.info, 25 scritto a numero. potete anche mandare degli sms o chiamarci anche per interloquire con i numerosi ospiti che ci sono questa notte. (06491750) già ve l'ho detto, boh. Ci siamo distratti pure sul semplice. Allora, facce note, dicevamo, le voci anche per gli ascoltatori e le ascoltatrici saranno abbastanza note e andiamo quindi a provare i microfoni un attimo, prima di iniziare. Prova. Vabbè, uno buono ce l'abbiamo, poi vediamo se l'altro riuscirà a funzionare. Allora, dai. Adesso sei il mio, il suo. Sì, no, il tuo. Il tuo va bene. Allora, ci siamo. Quindi, dai, presentatevi da soli perché è stata quasi un'improvvisata, come si dice. Allora, io sono Mimmo di DTM. E già ci conosciamo, e ci conosciamo pure con. Cioè, nel senso, no, fra noi che ci conosciamo sicuramente, no, però pure radiofonicamente parlando, insomma. E... Ciccio delle Barricate. Vai. Flavio delle Barricate. E lì c'è della gestualità, poi vediamo. Vediamo come. Negatività, diciamo. Sì, della gestualità che indica un approccio negativo. Vabbè. E quindi sì, progetto Barricate e allo stesso tempo progetto di DM acustico. Questo era un po' l'oggetto della serata. Quindi che cosa è successo in quest'ultimo anno, credo, all'incirca? È successo che i DM hanno fatto il set acustico e quindi si sono portati tutti, mo tutti i gruppi di Guidonia hanno il set acustico e quindi è, insomma è... Ma sapete che il set acustico poi implica una ulteriore serie di rotture dei coglioni? No, pure, sì, pure per esempio che se può suonare in radio. Ah, beh, vedi, sta cosa vedi, ci avevo pensato. Vedi. Se ce lo dicevi prima. Perché, cioè... Infatti. Vabbè, però è pure agosto, insomma. La facciamo quando c'è più... A parte che la facciamo, diciamo, normalmente qui i set acustici non li facciamo alle 11 di notte, perché sennò scende la gente non proprio simpaticamente. Guarda, questa è proprio una bella idea. Dobbiamo fare un set acustico in radio, magari ci prendiamo uno spazio serale, prima insomma, 8 e mezza, vediamo quando c'è, da ritorno ormai credo da così, dalle chiusure eccetera, magari vi preparate una scaletta di una mezz'oretta, tre quarti d'ora e ci proviamo. Quel pezzo insieme. Beh sì, è una cosa bella insomma. Ok. Insomma sì, perché questo ritorno all'acustico in qualche maniera, questa semplificazione poi a crisi, cioè manca, costa troppo la corrente, qual è? No, veramente era un po' una prova proprio per vedere insomma come potevamo riuscire a fare qualcosa d'acustico, e ci è voluto un anno e mezzo, perché ovviamente l'acustico è molto più pulito e quindi ci è voluto un po' pure per prendere una sorta di strada. Poi però insomma poi la cosa va preso. Sì, sono uscite, doveva essere un demo dei 4 pezzi, sono diventati 10. Alla fine poi è arrivata dopo pure questa collaborazione bella con le Barricate, che anche loro erano freschi d'acustico, insomma. Ma però questa cosa qui, al di là del disco, non ha fatto abbandonare comunque almeno live la parte elettrica di DDM, insomma. No, assolutamente, è una cosa aggiunta. È una cosa in parallelo che viaggia insieme e aggiunge, appunto. Sì, sì, un'altra pagina, una pagina un po' più pulita, visto che volevamo fare una cosa un po' più diversa, perché non fa l'acustico. Ma forse pure perché va alla ricerca, magari essendo poi DDM un progetto, insomma, non ostico, assolutamente, però che va a raccogliere... io parlo, magari parlo di età, ma comunque va a raccogliere comunque una serie di un pubblico, diciamo, una serie di auditori che hanno un'età abbastanza giovane, che gli piace comunque sentire il rumore, la confusione, la potenza, e invece magari il set acustico permette di allargare perlomeno. Sì, ma poi era anche una bella sfida, insomma, vedere proprio una cosa diversa, totalmente diversa apposta, se riusciva, almeno riusciva quello che noi avevamo in mente. Invece poi alla fine, cioè, è partito per 4, è arrivato a 10. Sì, infatti già c'è soddisfazione, insomma. Ok, e non so, vogliamo già subito ascoltare qualcosa, se non altro per capire di cosa stiamo parlando. Allora dai, presentiamola quindi, la traccia numero uno, che è proprio la cosa di cui parlavamo. Sì, la collaborazione Barricate e DDM Acustici è L'Uomo Redentore. Ok. Cos'è futile in un'età di un'altra situazione utile? Sai cos'è sterile l'austerità di chi si incunea nel suo mi sono svegliato e tutto andava al contrario. Pensieri anticipavano i corpi e asciami riempivano stanze, chili di vento per soffiare parole, annunciando l'inverno, addormentando il sole, girando l'altra luce, piangendo sotto voce, indicando la meta. Il sorriso del buio nella luna è completa. Per acquistarmi frutti, a me gli ubriachi, i tossicodipendenti, mangime fresco per gli occhi dei passanti, suonata ambulanza, acclamate il vostro signore. A me gli ubriachi, i tossicodipendenti, mangime fresco per gli occhi dei passanti, suonata ambulanza, acclamate il vostro signore. L'uomo redentore. L'uomo redentore. L'uomo redentore. Saggio. ad ora non darà soluzioni. Aprite signori tutti in piedi, l'ora del travaglio di una gioia che l'annullamento stesso della vita dignitosamente tolta. Lasciatogli creanza, voi che entrate vestiti di arroganza, dolore e lame, non avremo il senso della sorte prima di affrontarci. Solo mi ricordi da non voler accettare come unico frammento della nostra persona reale. È un errore ripetuto mille volte al giorno, è un errore al giorno, è un errore ripetuto mille volte al giorno, è un errore ripetuto mille volte al giorno. Il mare nella mano, pochi spicci per acquistarmi frutti, a me ubriachi, tossicodipendenti, mangime fresco per gli occhi dei passanti. A me ubriachi, tossicodipendenti, mangime fresco per gli occhi dei passanti. Suonate ambulanze, acclamate il vostro signore. A me ubriachi, tossicodipendenti, mangime fresco per gli occhi dei passanti. Suonate ambulanze, acclamate il vostro signore. L'uomo, l'uomo redentore. L'uomo, l'uomo redentore. Allora, quindi l'uomo redentore, dai. Vediamo il nostro perito informatico redentore, che è anche compositore del pezzo, che è Peppe, che è il valore fresco, aggiunto. Fresco, fresco, fresco dalle ferie. Chi? Ciao a tutti, non volevo fare questo pezzo, mi hanno incastrato con la forza. Vabbè, insomma. Sì, dai. Ok. Salutiamo pure Ruscio, che è l'altro cantante. L'altra che... voce. L'altra voce oltre Mimmo, che sta a casa Mimmo con la vuva, e quindi... Perché, diciamolo un attimo, questa roba qui è un po' il punto d'incontro, sì, poi dei due progetti che già sono paralleli. Insomma, sta nascendo una situazione in quel di Guidonia, tipo la Montreal degli anni, dei fine anni 90, inizio anni 2000, dove c'è stavano... Ma io direi più la Seattle. Dove... No, sì, no, no, vabbè, mo te dico perché sì, probabilmente sì, mo... Oh, bella, è arrivato pure il fantasma. Quindi siamo tanti, speriamo che il solaio regga, anche perché al solito c'è Ciccio che comunque ci mette del suo in quanto a densità. Ma io me faccio piccolino, metto ma non è una questione di densità proprio, sì, di solaio, sì, mettete sopra una parte in cemento armato. Sulla finestra, sì, nei sul punti. Pilastro. No, vabbè, dicevamo perché la Montreal, perché c'erano essenzialmente 50 gruppi, ma c'erano le solite 8 persone che comunque ruotavano e provavano in questa maniera a fare musica. Sì, a fare musica, ma proprio in questo incrocio nasceva la musica, in questa multipla combinazione poi di una scena florida. No, sì, vabbè, questa collaborazione ovviamente parte dal fatto che siamo amici, prima cosa, poi che facciamo tutte e due musica molto figa, quindi quindi alla fine, cioè, ma giusto... invece no, magari poi abbiamo proprio il disco di Barricade di DM Set Acustico, quindi magari avremo modo di approfondire. Invece di Barricade abbiamo parlato molto poco, anzi penso mai, qui a Radio Onda Rossa 25 O'Clock. Quindi se volete un po' illustrare il progetto, quando è nato, beh, in realtà è un anno di vita. Pure è un gruppo che comunque va, nasce dalle ceneri di un altro gruppo che era sempre di Guidonia, sempre un gruppo di amici e cavoli vari, insomma, chi è rimasto, che tra l'altro vedete Ciccio in versione Barricade è anche educato, ha detto cavoli ancora, vari ancora, cioè, non ho bestemmiato, esatto, verissimo, in diretta. Quindi questo qui realizza la cifra, sì, di come è un po' più, in realtà un po' più morbida la situazione, sì, diciamo, sì sì sì sì, più soffusa, sì, più soft, infatti funziona molto di più Fefo. No vabbè, insomma è un gruppo che va avanti così, è anticapitalista. Barricade insomma non è un nome banale messo così, no, a caso. Non è un nome banale, è scritto in modo banale come le grappe con la Q, insomma, però c'è effettivamente un qualcosa dietro, cioè... Forse perché c'è il doppio senso. Sì sì, ah sì, sicuro, sicuro, cioè c'è qualcosa delle grappe, qualcosa delle barricate. Sì. Lo scopo è quello di andare a levare i soldi a quelli che c'hanno i locali, no? Quello è la prima cosa. Poi c'è stata tutta la cosa musicale dietro, che insomma piano piano se sa fa anche musica originale, se no diciamo che facciamo pure un po' di cover, no? Sì. Abbastanza. Sì, magari se poi gli passi il microfono. Io ho sentito una volta Barricade... così dal vivo, c'erano cover dei CSI, Pace all'anima loro, e non mi ricordo bene qualcosa d'altro. No, ma facciamo varie cover, insomma sono tutte cose che fanno parte di quelli che sono i gusti musicali che ci abbiamo, quindi sì, cioè, hai citato i CSI, ma che so, c'è dentro De André, sì è vero, e Rimoria, è vero, Bertoli, sì, comunque sono tutte canzoni che magari non stanno là a caso, no? C'hanno tutte quante un po' un significato, e ci arricchiamo un po' il set, perché comunque ci piace anche fare musica originale, ma piano piano, no? Ci abbiamo qualche pezzo e cerchiamo di ampliare un po' il repertorio. Quindi è nato comunque come un po' un gioco, insomma, come molte volte nascono queste cose. Ma poi è nato via come... si è fatta più seria la cosa. Sì, è sempre comunque il rapporto d'amicizia che sta alla base e poi sfocia in quella che è una passione, no? Che la musica suona insieme, sta insieme e piano piano si cerca di fare qualcosa di più serio. Ma essendo acustici probabilmente è nata pure proprio al di fuori in realtà dei circuiti della musica, cioè a casa di qualcuno proprio. Casa del Ciccio è la sala prove preferita proprio. I vicini che dicono? Ma niente perché cioè, due chitarre acustiche e due peroni, il gruppo è fatto, ok. Quindi che, e poi non, che me devono dire, cioè. Senti, vabbè, dai. Sì, no, andiamo. L'altra cosa importante è che probabilmente poi la vediamo anche con Mimmo. Il fare versioni acustiche, cioè il fare una versione dei vari rispettivi gruppi acustica, insomma, comunque suonare in acustico, significa comunque in qualche misura dare un maggior rilievo essenzialmente ai testi, ma non perché appunto nelle versioni punk, hardcore, crossover o quello che è, i testi non siano importanti. DDM è uno sproloquio continuo, un fluire di parole, l'abbiamo già parlato insomma quando presentammo il loro disco precedente, non perché le parole siano importanti, meno importanti. Però è la contestualizzazione nell'acustico, in cui invece cerchi appunto di mettere in realtà in primo piano quello che uno va a dire, anche attraverso poi magari le cover, eccetera, cioè va a recuperare in questo caso. Quindi c'è essenzialmente pure una voglia probabilmente di dire delle cose, di dirle chiaramente, ecco. Beh sì, l'acustico per questo aspetto è una sorta di liberazione, perché... Dice, sì, è un po' una liberazione, perché come dicevi, infatti l'altro disco è pieno di parole e comunque sia con una certa sonorità distorta, parole quasi in eccesso, pure se non voglio dire che sono eccesso, perché alla fine secondo me la parola non è mai eccesso. E in effetti l'acustica è una sorta di liberazione, finalmente se riesce a dare il giusto peso, insomma, le parole, se si sente veramente bene, insomma. Stavolta, insomma, non è colpa mia se non si capisce il testo, cioè, è comprensibile. E quindi questa è una cosa, diciamo, che alletta tanto, secondo me. Cioè, se fa un discorso, diciamo, concettuale, che hai voglia che sia ascoltato, che ci sia un concetto in mezzo alla canzone, l'acustica è proprio una porta aperta. Vogliamo sentire una cosa dei DDM acustico e magari dopo ci pensi un attimo, anche se ci ha già pensato perché ci avete fatto un disco, magari mi dite qual è questo concetto, se ce n'è uno, se ce ne stanno tanti, se sono tanti incrociati e se... Sì, come no. Convinto che non fosse gesto di un pazzo, si mise ad attendere il proprio turno. Era come partire, era come cadere nel vuoto senza fine dell'inevitabilità. Si avvicinava un barco, si apriva, lui in un soffio diceva: nessuno mi fermerà. Non ho una fede, non ho una bandiera, ma nemmeno paure, alla mia mano questo basterà. Sale sulla carrozza, scomparve la piazza, scomparvero il mare, le idee, la gente. Il tempo collassava dentro l'istante, partiva la mano di passannante. Oh, no. Allora, risolti un po' di problemini tecnici, quindi abbiamo DDM set acustico, da cui andiamo ad ascoltare la prima traccia del... Sì, sì, è la prima. È la prima traccia, che si chiama Giorno, eccola qua, dai. Mi sveglio nei miei occhi frammenti di un sogno che svendo abdicando il mio tempo al guadagno. Sono in ritardo, maledetti fattori di un tempio, cosa ne crescendo il bisogno. L'anima non si vede ma esce dal corpo, è come fumo nel vento, a tratti ritorno attratto dal mondo. Mi perdo nell'aria di una sera senza data, senza data. Trema il soffitto, il mio letto, una forza che scorre attraversa lo sterno, una mano racchiude me stesso nel sogno, è la chiave di tutto, è pensiero epicentro di un sole che splende all'interno, ingabbiato nel buio dell'ufficiale giorno, ingabbiato nel buio dell'ufficiale giorno, dell'ufficiale giorno, giorno. Allora, prima che mandiamo tutto le 10 tracce, mandiamo un po' di rumori così perché era troppo serena l'atmosfera, si era fatta. Allora, dicevamo, DDM set acustico. Assolutamente lo stile è quello dei DDM, cioè i DDM sono loro, però che suonano appunto in acustico, cioè non c'è l'elettricità, o almeno non c'è l'elettricità poi alla fine sono strumenti che la maggior parte poi abbisognano comunque di amplificazioni e l'elettricità serve sempre, però in teoria si può fare pure in piazza. Beh sì sì, senza dubbio, cioè elettricità diciamo educata. E, eravamo rimasti appunto allo stile che serve però per veicolare dei messaggi. Ecco, quali sono in questo caso, se c'è un concept, se c'è un tema conduttore, una cosa insomma che vi premeva di metterci dentro questo disco, oppure se sono appunto frammenti, se sono tutte storie differenti assemblate poi insieme a fare un disco. Allora, innanzitutto per piacere comunque si sente diciamo lo stile nostro, perché abbiamo fatto caso, insomma, volevamo comunque sia fare un acustico un po' vivace, diciamo, non troppo piatto. E il disco si chiama Gabbia di Vetro, proprio perché diciamo vorrebbe comprendere tutte le gabbie sociali, ma anche psichiche, perché anche interne, diciamo, a noi oltre all'esterno. E quindi di vetro, perché è una gabbia da cui tu... Che diciamo, non si vedono in realtà. Però sei visibile all'esterno, mm-hmm. Cioè è diversa dalla gabbia. Ma non si vede, non la vedi te da dentro, non la viene vista da fuori, però gabbia è. Gabbia è, forse gli altri la vedono, magari tu non la vedi, capito, però... è fatta un po' diciamo a misura tua, ad uomo, e quindi volevamo un po' racchiudere attraverso anche delle storie comunque sia, perché anche tante canzoni, Quale Nessuna Gloria, che parla insomma di un operaio che dopo una serata che magari ha fatto qualche stravizio, il giorno dopo per diciamo un incidente al lavoro, per la colpa magari di un'emergenza di un nastro, muore. E alla fine poi però chi parla non è che non parla la vita sua, ma parla solo l'incidente, quindi parla di esame psicologico, e quindi, certo. E quindi anche e quella quindi è una gabbia comunque è sia. È bollato. Sì, è bollato e senza nessuna gloria, mentre magari lui certo. È epicentro di tantissime cose che ha visto, che ha fatto sì. Non vengono citate. Ma viene da pure questa qui, da una cosa che così è nata come licenza poetica, cioè come... mi voglio inventare una storia, oppure nasce da qualche episodio che comunque è stato... No, onestamente, cioè, ipotetico. È ipotetico, ma neanche troppo, perché comunque sia siamo tutti operai, quindi può succedere come... Siamo tutti operai, questa è... che ci facciamo se va bene. No, noi quattro, insomma. Noi siamo quattro, siamo 12. Noi quattro, e quindi è possibilissimo che... No, ma serata... è forte qua, cioè, un gruppo sì, sì. Opera... Cioè, una volta c'era il gruppo Operaio e Zezzi che facevano i canti di lotta popolare a Napoli. Ah, sì. Esatto. E qui abbiamo un gruppo Operaio di Guidonia. Siamo tutti operai, è bellissimo. Lo so, lo so, lo so. E quindi... abbiamo anche problemi con gli esami. Vabbè, lasciamo stare. Poi ce lo racconti, da repressione. La repressione che si manifesta in tutte le molteplici forme. Scusatevi, ho... No, niente, quindi è possibilissimo che un giorno... Possa accadere un incidente. O magari è accaduto e non lo quasi sappiamo. Accaduto, sì, possibilissimo. Poi se lo sfondo diciamo è tragico... a fini che diventi una bolla, così è una cosa secondo noi che vale la pena raccontare, insomma. Poi abbiamo pure Dario stasera, che casomai lo mettiamo in mezzo fra un po' per... Che succede? È un commiato? No, se ne va il maestro. Se ne va il maestro, sì. L'arrangiatore. L'arrangiatore, il creatore del... Vabbè, poi sì, poi meglio sì. Che parliamo al microfono, Ciccio, se no è un casino per radio. Lo salutiamo, se ne va, sì, lo salutiamo Peppino che se ne va Peppino che tra l'altro apposta è pure parte di Barricade. No, partecipa, sì è vero, l'hai visto, sì no, è, siccome è un amico ci aiuta, aperti. Certo, siamo aperti, sì, suona chi va, chi quando c'è bisogno, chi c'è in quella sera, quindi no sì, ci ha aiutato parecchie volte, lo ringrazio pubblicamente. Anche perché poi in realtà è un gran chitarrista, eh. Ammazza. Prima si vantava da solo. Se portarci sua. Però Ciccio, qui così dobbiamo parlare di palcoscenico, invece stiamo per parlare no, di Riccardo. No, vabbè, ma portarci sua, sai che qua vuol dire... Vabbè, è un'interlocuzione. Certo, ma è... Perché io aglio bene. Dai, dobbiamo trovare una cosa da mandare dopo. Sì, mandiamo un altro pezzo. Un altro sempre pezzo nostro, un altro pezzo loro. Va bene. Ok, allora intanto io metto una traccetta qui che andava sotto, che sono in cute e poi. Liquid lifeboat, it sleeps offshore. It was sailing backwards to the freaking north. My brother, the wind, he's got to know. They got to get it together. Slipping sideways to get it straight. The siren sonars, my tension fade, fades in a pleasant mood today. Al solito c'erano i microfoni aperti, quindi si è sentito tutto. Get around, much behave. Ma non si è visto nulla. Allora dai, presentiamo questa traccia di Barricade. No, quest'altra traccia si chiama Piedi Nudi, diciamo, è la prima che abbiamo fatto come Barricade. Una canzone insomma molto profonda, ma molto dolce, che noi dedichiamo sempre a le piccole, no? Sofia e Frida, e insomma l'ascoltiamo, che così Frida, Sofia ci arriva. Sofia è la piccoletta del ciccio, Frida del Daniele, insomma l'ascoltiamo e gli mandiamo un bacio. Va bene. Yeah. Allora, parlavamo quindi, anzi, ascoltavamo, facevamo parlare Barricade, abbiamo anche acceso gli accendini, abbiamo danzato. Sì, abbiamo anche versato un paio di lacrime. Sì, ho più. Allora, ci teniamo con l'amico Flavio a salutare i collaboratori di questo pezzo, che sono il grande Remo dei DDM al basso, che ha prestato la sua mano potente per questo pezzo, e Cristina dei Sargeri, che è un gruppo sempre di amici nostri, che insomma ha prestato la sua voce, la sua ugola d'oro. Sargeri, che pure prima o poi dovremmo avere qua. Anche Elettrodo aveva avuto delle dritte, sì, per far venire Sargeri. Beh, sono un po' più tecnici, tecnologici, insomma. Sì, sono grandi amici nostri, anche De Mimmo, quindi insomma noi possiamo assicurare per loro, no? Beh, sì, dai. Vabbè, dai, senza impegno comunque, dai. Ci piace un po' esplorare anche la zona, come dicevamo, est di Roma. Dai, andiamo avanti con DDM 7 Agustico. È un gran disco, una grande copertina, cazzo. Si sta scaldando. Possiamo anche dire chi l'ha fatto questa copertina? Sì, assolutamente. Innanzitutto io ho detto una cazzata, insomma. Vabbè, noi siamo cinque. Noi ne diciamo tante. Sì, quindi. Infatti, ma io pure, quindi. Sì. Mi sento a mio agio. Ammesso. Poi, sì, ammesso. E poi tra l'altro ci smentiamo. Quindi. Ci smentiamo, infatti. Noi siamo cinque. C'è Veronica, infatti, sta qua. Però gestualizza lei. Sì, gestualizza tanto. E radiofonicamente il gesto, diciamo, è poco esplicito. Non però, è presente. Insomma, noi cerchiamo di renderlo visibile anche agli ascoltatori. Gestualizza. Sì, comunque sì, siamo cinque. E quindi che ci andiamo ad ascoltare? Ci andiamo ad ascoltare il reale. Cade questa traccia. Ok, aspettiamo un attimo. Ed il giorno che passa le spalle più grosse di quello seguente non avrà paura di esporsi nel vento, se c'è un lamento a nastrare nel fondo di un falso trionfo, un mancato trionfo, di un falso trionfo, un mancato trionfo, mentre poi tutto attorno non dà riscontro a quel timido affronto, quel buio profondo, quando panno odierno il suo far angoscioso, ma dice moderno che era svogliosa quando stringe sui fianchi, non riesce a passare entro i pochi mentali al nostro grande affare, a vergogna un albergo a domani, a vergogna notte nel coprirgli le mani, a vergogna notte nel coprirgli le mani, nel coprirgli le mani, coprirgli le mani. Il saggio assonnato rimane in disparte, guarda lo stolto come vedi pulisce quel fuoco del furbo che niente mi infligge, poiché scatta a memoria senza farlo bastone la sottomissione, mentre per un tramonto un'altra inversione dentro il freddo di un uomo di una notte in stazione, nello sguardo del vuoto e ogni colore si schianta colato, era ancora il pudore, si sente dominato, se lo cita il cantore, lui è soltanto una mente che sputa parole, lui è soltanto una mente che soffre parole, che soffre parole, che soffre parole. Chi ha inventato le sveglie e ci ha imposto di usarle, ci ha nascosto le stelle inventando i ritardi, ci ha macchiato la pelle con orrendi quadranti, ci ha nascosto i momenti col suo cronometrarli. Le mani alla smaturati di tutti i nostri morti ammazzati. Io sto per strada col mio scrollato, tu in Parlamento rubando una fiato. Raccontami in cosa siamo diversi quando mi cerchi per giocare versi. E poi ho il pizzo alle puttane per farle fottere liberamente, farle guadagnare il giusto e farle spendere a più non posso. E tu ragazzo che non hai mangiato ricorda poi sempre fare il bagno. Io non ho ancora digerito l'ultima volta che tu ti ho tradito. La luna ha fatto un patto col sole, la luna ha fatto un patto col sole, tocca all'alternarlo. Quando troppe creme renderanno nulla la sua funzione, quando cercherò chi è tra solo. Lenti scure, lenti scure, lenti scure, lenti scure, lenti scure. E adesso andiamo a affrontare un argomento che è quello un po' della parte live, che penso che poi per appunto abbiamo parlato e sempre così affrontato la cosa, cioè la possibilità di suonare in acustica e quindi la possibilità di allargare in realtà i posti dove è possibile suonare, appunto dalla cucina, sì, da casa de Ciccio fino alle, sì, piazze, sì, fino ai prati, fino, no, a... Devo ammettere che il passaggio acustico è... Cioè, sì, te apre, ma pure purtroppo, perché poi alla fine te lo riesco pure in situazioni veramente pessime, becere, ma pure burine, direi, però va bene. Però pure lì vanno dette certe cose. Sì, sì, no, ma, no, ma non è questione di... cioè, noi siamo sempre uguali, quindi cioè, chi c'è davanti, c'è davanti. Però la cosa che è un po', insomma, un po' curiosa è che comunque quando se sembri buono, cioè nel senso tu suoni leggero, sembri, capito, magari fai qualche cover così azzeccata, ti danno molto più spazio, poi alla fine invece cioè, quello che siamo noi poi esce fuori e con alcuni tipi di personaggi non ci si può proprio combattere. Cioè più o meno, insomma, non penso che... Mimmo possa insomma, sì, aggiungere qualcosa sulla... Sì, no, poi se no c'ho pure da dire ancora. No, beh, la situazione... Lui ha iniziato dicendo come barricate... come il percorso loro è proprio per le esordi localari. Secondo me, cioè, può sembrare, diciamo, brutta la fonica questa parola, ma secondo me significa è un po' perfetto. Perché stanno delle situazioni veramente... brutte, diciamo, che sto appuntando della musica, dell'espressione, tutto quanto. Vabbè, ma voi ci andate, insomma, poi alla fine pure in queste situazioni, no? Sì, ni. No, noi ci andiamo, gli levamo i soldi, cioè, levamo soldi. Discorso, quindi sì. È quello di, cioè, il discorso è proprio quello, è che cioè, siccome non ci abbiamo c'è più un 15 non so anni, di militanza in questo. Bravo. Allora, siccome non ci abbiamo più 15 anni, allora il quello che c'ha il soldo, che mette il localino, che non è che la prima domanda che te fa è quanta gente porti, non che cosa fai, chi sei. Ma che sei comunista? Cioè, proprio... No, è solo quanta gente porti. Allora, la risposta nostra è: noi portiamo gente se tu ci paghi. Se tu non ci paghi, io non mi dinculo proprio, non ti porto nessuno. Cioè, okay, è un ragionamento circolare, che fila. No, che poi sembra che veramente fa lo spettacolo tuo, che comunque sia, uno ci perde tempo perché vuole che sia in un certo modo... Sembra come se sia proprio una cosa, cioè sto favore fatto proprio perché... Vabbè, sei merce, che... in quel caso... Ma magari se merce, perché la merce va pagata comunque, sia, se spera... Che gli frega, cioè sei, sì, merce che vale, cioè vale per lui, non è che... Sì, no, però nel senso, se fosse un discorso così a livello di prodotto sarebbe pure molto più equo, che già questo fa pensare, insomma, perché è proprio così e tu rimani là. Così che devi fare tutto quanto... Il precariato musicale, una sorta di... Così, per usare un termine sociologico. Sì, ma basterebbe un po' di interesse reciproco per quello che è la serata, che poi comunque sia... Un po' di passione per quello che uno fa. Sì, perché poi il lucro è del locale, quindi alla fine poi è giusto averci un po' più di spirito di iniziativa nel fare una cosa quasi insieme, voglio dire. Pure se poi la faccio io, è una condivisione, sì, una cosa più umana, diciamo, che poi alla fine, poi dice bene, se questo è il discorso, spalla al muro, allora magari se riesci a averci in cachet, dici dammi i soldi e vattene a fanculo, che poi può essere una cosa brutta o bella, però dall'altra parte non c'è sta democrazia, perché già sto di così è molto più democratico la scelta loro, per favore, dico. Invece un'altra cosa, sempre a Mimmo, invece DDM proprio come live, quindi c'è anche questo discorso che facevi te, quindi l'ampliamento dei luoghi dove uno va a suonare. Come la mettete con i concerti? Cioè ci saranno DDM set acustico e DDM, cioè due percorsi totalmente paralleli anche live, in cui una volta, oppure nel concerto magari ci infilate la roba acustica o viceversa? No, appure sarebbe comunque sia una bella cosa, però adesso è stata impostata così, diciamo, dopo due strade. Set acustico, date acustiche, due versioni completamente differenti che suonano in luoghi, in posti, in date, in momenti differenti. Sì, due scalette, due progetti diversi che però sono la stessa cosa, dette in altre chiavi. Va bene, io direi di continuare un po' con i suoni. Credo che ancora Barricate dobbiamo ascoltare qualcosa o no? No, continuiamo ad ascoltare quindi DDM e il loro ultimo lavoro. E poi magari fuori onda vi illustro un po' qual è un'idea che mi è venuta così, anche trasmettendo. Che cosa mandiamo? Quindi dicevamo DDM, ci andiamo ad ascoltare dal 10 tracce che si intitola, già non mi ricordo più, che l'avevi detto? Gabbia di vetro. Gabbia di vetro, ne avevo anche parlato, quindi vabbè, mi dovete perdonare. E che cosa mandiamo adesso? Nessuna gloria, la seconda traccia. Nessuna gloria, DDM. No, questa l'abbiamo già ascoltata, poi si chiama Giorno, della prima traccia. Abdicando il mio tempo al guadagno, problemi di Winamp. Maledetti fattori di un tempio, cosa ne crescendo il bisogno. Mo stavolta ci abbiamo preso, eh. Mezzanotte al vetro guarda normali, nel suo corpo scorre vodka. La tasca destra quando è corto di spicci si allunga e lui sprofonda. Tra due inizia il turno, senza colazione, partirà il nuovo giorno, senza colazione. Lui che non sfrutta la forma, l'unica certezza dell'esistenza, l'ombra che svanisce all'alba. La gioia come foglia morta che non decolla, la gioia. Pioveranno incudini sulle sponde e gli angoli per coprire i gemiti dei nascenti pargoli. Arruolati e impavidi, i nascenti pargoli. Arruolati e impavidi, i nascenti pargoli. Senso se nostra, su quella degli altri in noi la certezza. Ipocrita condanna di una stirpe che scorda, ipocrita vendetta se chi deve non tocca. Mentre ritagli amore usa cornici di odio, dal passato i colori per disegnare nuove ore. Un ritratto sfumato, un cattivo sorriso, uno stentato giuoco per sentirsi ascoltato. crepuscolo e vodka. Due tubi nel collo, la causa è il falso contatto di un nastro. Ma l'esame non si conosce qui da addosso. E senza nessuna gloria finirà l'ultimo giorno. Senza nessuna gloria finirà l'ultimo giorno. Sotto la forma l'unica certezza dell'esistenza è l'ombra che svanisce all'alba. La gioia come foglia morta che non decolla. La gioia pioveranno incudini sulle sponde e gli angoli per coprire i gemiti di nascenti pargoli. Arrolati e impavidi i nascenti pargoli. Se nostra su quella degli altri in noi la certezza. I pochi da condanna di una stirpe che scorda. I pochi da vendetta se chi deve non tocca. Mentre ritagli amore usa cornici di odio dal passato i colori per disegnare nuove ore. Ritratto sfumato, un cattivo sorriso, uno stentato gioco per sentirsi ascoltato. Allora, Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza 25 o'clock, 11 minuti alla mezzanotte. Barricade e DDM. Set acustico. Negli studi di Radio Onda Rossa 0649 1750, il recapito telefonico. Se volete interloquire con noi. (342) 357 4357, gli sms in diretta della radio. E allora no, ritorniamo in studio e ridiciamo un po' quello che ci siamo così accennati fuori onda. Lo diciamo in diretta proprio perché appunto è una roba così che nasce estemporanea, un'idea da inizio d'agosto. Chissà se vedrà poi, però insomma la volontà ce la mettiamo. Speriamo. E, praticamente niente, proprio perché si parlava di live, di dimensione appunto diversa e particolare. Due gruppi che comunque insomma fanno della militanza, dell'importanza dell'impegno sociale e politico uno dei centri insomma della propria produzione artistica. E noi ci troviamo da un po' di tempo con questa storia dei compagni che delle compagne che sono stati condannati praticamente in corte di Cassazione. In particolare due si trovano nelle carceri, poi tutte le situazioni processuali sono diverse, alcune avranno delle code giudiziarie ancora in avanti e per ora sono in libertà. Fatto sta comunque che per le storie di Genova, cioè per una feroce repressione che fu fatta all'epoca nel 2001 eccetera eccetera, senza che ristiamo a raccontare una storia che voi sapete benissimo, certo. Si trovano appunto a dover subire delle pene durissime e lunghe, appunto per essere accusati semplicemente alla fine di qualche danneggiamento insomma. Però è stata usata una fattispecie di reato, quella di devastazione e saccheggio, praticamente che se te la piopperanno da oggi in poi in qualsiasi situazione di piazza che ci sarà insomma, ma forse anche non di piazza, nei CIE e in tanti altri posti insomma, se è uscita fuori questa roba della devastazione e saccheggio, e comunque combinerà praticamente tronca le gambe, perché qualsiasi esposizione di dissenso diventa punibile potenzialmente con anni e anni di reclusione. Allora, siccome gli anni di reclusione costano gli avvocati, costano le situazioni. Noi stiamo cercando così, l'idea è quella di mettere su una sorta di campagna di continuità, di iniziative, appunto per creare un fondo, una cassa, un qualcosa che comunque ci tuteli da questo punto di vista, almeno finanziario, per quanto riguarda appunto i compagni che sono rimasti drammaticamente e personalmente coinvolti dentro queste vicende di repressione. Quindi questo è praticamente una forma così di invito, non tanto appunto a famo e il concerto, ma di collaborazione, di coinvolgimento, di mettersi in mezzo rispetto a delle storie che magari rispetto ai gruppi vostri possono anche costituire, non so, un elemento di distinzione, di crescita, di... No, ma beh, noi non c'è, non c'è nessun problema. Ben vengano serate benefit per queste situazioni, cioè l'abbiamo sempre fatti, quindi... Ma siamo senza dubbio proprio, massima proprio voglia, più che disponibilità, massima voglia proprio. Anzi, ci troviamo a fare serate magari un po' più soft musicalmente delle altre, però insomma comunque impegnate allo stesso modo, insomma, tranquillamente. Quindi fa parte un po' del vostro percorso... Umano. Umano. Umano. Artistico, siete no, artisti. No, umano, perché viene prima l'uomo che... Sì, sì, è prima l'uomo. Ok, non lo so, 23:53 minuti, non so se Dario voleva aggiungere qualcosa intanto. Oh, forse il fantasma apparirà più tardi. Il fantasma appare più tardi, per ora appunto si manifesta semplicemente personaggio... sotto forma ectoplasmica, ambiguo. Sì, non è ma molto non molesto definito. No, no. Non molesto. Non è ancora molto definito, no. Senti, dai. Anzi, senti. Facciamo sentire a loro sì. Ancora qualche cosa di DD. Ah, voglio, voglio. But lose their souls. Vai. No, mo devi parlare al microfono. Non ci siamo sincronizzati con Mimmo. Lui parla scusa. Quando c'ho il mixer abbassato e io gli alzo il mixer quando c'è il mixer. Diversa al mucchio. Gabbia dietro. Grazie al mixer. Gabbia dietro, la sesta traccia. La sesta traccia. No, è il titolo, è la title. È il titolo del disco. Che il fantasma polemizza. Bah, vabbè, dai. Sono gli amici lontani e progetti che ti hanno rinchiuso e che ti hanno illuso. Dormi, non vedi che hanno spento le luci, non tremi. Se ripensi al passato mi vedi, sono ciò che sei stato e che sempre avresti voluto. Rosa dei tempi e divengono giorni tra conti all'uscita dei sogni di libertà. Dormi illudendo la rosa dei tempi e divengono giorni tra conti all'uscita dei sogni di libertà. Dei tempi e divengono giorni tra conti all'uscita dei sogni di libertà. Sono gli amici lontani e progetti che ti hanno rinchiuso e che ti hanno illuso. Dormi, non vedi che hanno spento le luci, tu credi che saranno gentili domani, che saranno

camminato giorni interi, ho camminato giorni interi per poter capire. Ma ho camminato giorni interi, ho camminato giorni interi per poter capire. Che non si masturbano gli alberi, cerca narcomani di risposta ai carceri. No, non si masturbano gli alberi. Non si masturbano gli alberi cercando arcobaleni di risposte ai carceri. No, non si masturbano gli alberi. Vedo sistematico, avvenuto e sadico. Vedo sistematico, date voluto e sadico. Vedo sistematico, vedo sistematico. Cancella a Genova, il sangue non si cancella. Ferrara, il sangue non si cancella. A Roma, a Bologna, in Italia. E abbiamo fatto un giochetto, Vai Mimmo, raccontaci che giochetto abbiamo fatto. Niente, questa è l'ultima cosa che abbiamo registrato, che è fresca di una settimana. Diciamo i primi due pezzi del disco nuovo elettrico, Il dubbio uccide. Quindi non vi fermate proprio, ormai delle pagine. No, quest'anno è stato molto devoto, diciamo, alla versione. Però in questo caso ci avete avuto un'idea così un po' paracula. Dici, metto la versione acustica e ne faccio pure la versione elettrica, perlomeno mi dà il lavoro. No, in realtà è che Gabbia di Vetro come concetto ci è piaciuto tanto. È partito dall'elettrico, però l'elettrico era ampio e diciamo il dubbio uccide rientra in Gabbia di Vetro. Quindi il dubbio uccide, perché il dubbio sulla gabbia e su tutto quanto. E infatti Gabbia di Vetro abbiamo chiamato a detto un disco e un'altra canzone, questa è la versione elettrica di Gabbia di Vetro, che è un po' diversa, diciamo. Sì. Comunque vabbè, sospendiamo il giudizio su quali siano i migliori fra la parte acustica e la, però è a gusti pure, insomma, magari, oppure l'orario del giorno in cui si ascolta, oppure la situazione psicologica in cui lo si fa, insomma. Sì, è tutto. Ce n'è per tutto. L'orario della sessione psicologica potrebbe essere in pezzi. E invece, dato che ci abbiamo Ciccio sotto mano, facciamo proprio i giornalisti musicali. Cioè, una roba. Scusa, prego. Una cosa, perché già stavo nominato prima, ma non ho detto un'altra cosa perché stasera mi scordo le cose. Ma no, comunque sia, Remo, un saluto enorme a Remo. Cassano al disco acustico, che la chitarra è una delle due chitarre al disco acustico, è il bassista nostro storico e prima chitarrista, comunque sia un elemento storico fondamentale per il DM. Quindi salutaremo. Ok, benissimo, ti aggiungiamo Remo che ce l'abbiamo dimenticato, poi comunque sì, sì, ma lo saluto pure io. Ok. No, vabbè, c'erano dei facili. Comunque è meglio chiamasse Remo che Romolo. Sì, non l'ho capita, però sì, no, va bene, la vabbè, sì. Hai capito? Perché vabbè, questa qui poi ha, diciamo, ora di Geggiano fuori, cioè, onda, fuori onda, perché appunto Ciccio comunque qualche cosa non la capisce durante. No, no, ma io sembro, ma in realtà non sei proprio sveglio. No, no. No, visto che ce l'abbiamo invece Ciccio in versione invece che Barricata in versione palcoscenico, palcoscenico che si fanno vedere di tanto in tanto dal vivo, ma non com'è? Che c'ha giorni palcoscenico a Neon 2.0? Beh, sì, mo domanda d'obbligo, ma in realtà no. Vabbè, abbiamo cambiato. Non ne vorresti parlare? No, no, vabbè, no. Ne possiamo anche parlare. C'è stato un cambiamento di lineup. C'è stato un cambiamento di un membro del gruppo che, insomma, abbiamo cambiato batterista, insomma. Cioè, questa è la storia. E quindi nonostante, insomma, la il riverbero però nonostante insomma la cosa umana che è stata abbastanza pesante come situazione, però diciamo in grande amicizia si è risolta e ripartiremo più forti che mai e con però, più incazzati che mai, però con ormai un anno e passa un anno e qualche mese dall'ultimo uscita. Sì, no ma noi come diciamo già chi tanto. Come sai qualcosa. Benissimo, cioè abbiamo un disco pronto che. E mi tocca tirartene fuori con. No, noi avevamo un disco pronto, però insomma è successo il fattaccio, quindi dobbiamo aspettare un po' e il disco uscirà quando sarà pronto. Va bene. Però è pronto, cioè sono 10 pezzi e. Ma già registrati? No, registrare al volo. No, però. No, c'erano 10 pezzi fatti con Simone. Sì, certo. E siccome lui non c'è, mo adesso dobbiamo riarrangiarli tutti. Certo. Però uscirà tranquillo. No, non si agitiamo mica. Tanto sarai sicuramente il primo a saperlo, il primo a passare anche, i pezzi. Ma anche il quinto. No, il primo, lo sai. Va bene. Ognuno sa quando è tempo di andare. Non sono troppo stupido e non l'ho mai capito. Fine che ci consuma e noi non lo sappiamo, ma ci sei guida per l'incarico, senza più niente da dire, senza più niente da dire, senza più niente da ricordare. Cos'è veramente cambiato? E anche le nostre parole cantate nel vento, ora il fumo di una sala. Ognuno sa quando è tempo. Con tempi assolutamente radiofonici. Abbiamo messo mezz'ora da quando doveva partire la cosa, che avevamo appena finito di parlare. Cioè, doveva essere così in radio, però. Mezzanotte e 10, ma che volete? Dicevamo una volta, questa è la trasmissione più scrausa di Radio Onda Rossa. E quindi Lucas, palcoscenico al Neon. Contra bada che messo. E ancora un'altra traccia nuova elettrica per quanto riguarda DDM, che inizia a bestia. Così, da capo, 25 o'clock, Radio Onda Rossa. Bandiera di zero. try, you can't stop us now. No matter. Che roba, eh? Poi si chiacchierava, insomma, si parlava. Vabbè, questo è dopo una certa ora, studi Radio Onda Rossa, insomma, se l'atmosfera si fa molto amichevole. Sì, però c'è un microfono, sì, non si è sentito nulla. Sì, sì, è tutto molto più amichevole. Vabbè, per fare un passo indietro, noi volevamo salutare. Volevamo salutare gli amici che sono anche gli altri componenti delle barricate, no? DM. Pure di DM, insomma, manca qualcuno all'appello, no? Vai. Allora, Davide Papa, che è il percussionista dei DM acustici. Eppure delle barricate. Eppure delle barricate, quindi un doppio saluto a Davide. E poi è un grande personaggio di DM acustici, lo dico la verità. Ma in generale, dai. In generale, gli mandiamo un grande abbraccio. Prima in generale, perché anche lui è stato bravo, però proprio nei DM acustici comunque sia un bel personaggio. Più, te lo rivendichi? Me lo rivendi così. Te lo stai a collà. Sì, anche Cristian Merlino ha batteria e DM elettrici, che comunque sia un componente storico, un abbraccio enorme. E poi noi volevamo salutare Daniele, il piccolo Daniele, che insomma è un po' che ci accompagna alle percussioni, quindi un abbraccio pure. Pure a lui, e dovremmo essere tutti, no? Sì. E quindi niente, volevamo aggiungere questa postilla. E poi Ciccio, ci stanno piccole e grandi repressioni, no? C'è chi magari finisce per tanti anni in galera, e c'è chi comunque viene limitata la mobilità. Chi per un anno non può guidare, per esempio. Amici nostri che sì, conoscenti proprio stretti. Tipo io, per esempio. Contento, ma devi mettere forza di dare una piaga. Contento di questa situazione, è piacevole, vero? No, ma la sto apprezzando, guarda. Vabbè, ma guarda, da un certo punto di vista. Da un certo punto di vista la sto apprezzando. Se veniva la trasmissione a Critical Mass, avresti appreso che sì, in realtà sì, no. si dovrebbe vivere molto meglio senza. No, sì, zia motore. Però purtroppo è necessaria la locomozione elettrica, elettronica. Sì. Poi i ragazzini piccoli, che devi ci metti. E poi dopo non è che te puoi pure andare a lavorare, non è facile, sì, volte quando stai, vabbè, insomma, c'è niente. Bisogno di una vista, insomma, comunque quello. Era una cosa per farti diventare più militante, no? Sì. Penso che sia stata fatta apposta. Ma guarda, non lo so chi c'è, cioè, so benissimo chi l'ha fatta, ma spero che non ci sia un disegno molto più grosso dietro, perché no, cioè, non lo ma reggerei. Forse anche le circostanze direbbero che non c'è un gran disegno. Sì, non c'è, è solo una grossa sfiga. Che può succedere a tutti, però. Sì, no, vabbè, spero di no, non lo auguro a nessuno. Soprattutto di incontrare quel testa no, di no, cazzo no, no, che no, mi ha no, fermato. No. Vabbè, questo è un altro discorso. Vabbè. Che va, che dico il nome? No, è quello. Ah, è quello, vabbè, non lo dico. Fino a qui andiamo bene. Se vuoi lo dico. No. Osa lui. Ah. Vabbè. Sì. Vabbè, penso io che io stasera mi prendo tutto quello che avete portato, dischi eccetera, perché mi è piaciuto tutto, quindi sì, lo dobbiamo sicuramente ritrasmettere e riportare avanti. Ci abbiamo pure il fantasma che magari vuole fare la chiusura. Forse magari no. Ma non vedevo l'ora, era proprio il momento topico della serata e aspettavo insomma di apparire a voi nella giusta forma. Io vado a ruota libera, tanto non mi ricorderò molto, a parte qualche registrazione. Insomma, siamo giunti a... alla fine, penso. Ciccio è sparito, magari per i saluti finali, e pure Mimmo. Però li andiamo a riprendere, penso. Sì, vedi. Buongiorno. Beh, ci ricorda. No, balletto. Lo vogliamo ricordare cosa è importante per la vita di questa radio? Allora, ricordiamo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che se sono soddisfatti della spiegazione riguardante la pezzatura delle vacche possono sottoscrivere al conto corrente 61804001 intestato alla cooperativa culturale Laboratorio 2001 via De Volci 56 00185 Roma. E per esprimere ogni qualsivoglia apprezzamento, l'email è ondarossa@ondarossa.info. E ricordiamo anche il telefono per i vostri trilli, che questa sera insomma si sono fatti vedere poco, siete molto stanchi, eh? Però ve lo ricordo, è lo 0649 1750. E... Vabbè, dopo grazie, queste sono cose belle da ricevere, i dischi, sì. È uno di quei regali che ti vengono fatti poco, ma ti venivano fatti anche una volta quando i dischi giravano di più, perché appunto poi ti dicevano, vabbè, cioè al di là del banale, era difficile che un disco a una persona perché la devi inquadrare, e poi se ce l'ha... Non puoi, e molte volte almeno mi è capitato che le persone che ti devono regalare il disco, almeno con me, insomma, che magari giravi su cose un po' più difficili da ascoltare, più del mainstream, insomma, era molto difficile regalare i dischi, però quando le hanno fatto, devo dire, ci hanno sempre azzeccato. Vo' basito. Ah, bel disco, è regalone, penso. Poi è vero pure che c'è bisogno pure ma secondo me il disco è sempre ben scelto. Okay. Pure perché c'è dietro la fatica, il tempo, il piacere, la gioia, la rabbia. Si dice un disco in generale, ma un disco autoprodotto fatto. È questo, sì, fatto, sì, sì, a secondo me è sempre ben scelto. Cazzo, è un disco fatto da te. E quindi dai, insomma, Ciccio, vogliamo salutare tutti e tutte. Ci sta più a cuore. Sì. Buonanotte a tutti e a tutte. Insomma, siamo sempre contenti di venire qui in ogni forma e in ogni situazione con tutti i gruppi, perché è giusto venire qua, insomma. E qualsiasi cosa verrà dopo è tutto buono, insomma. È tutto giusto. Fai giusto. Io ringrazio per l'ospitalità di questa serata e salutiamo tutti. Vabbè, comunque l'importante è che poi si crea in realtà dentro la trasmissione, dentro radio, quel clima di sincerità, insomma, e di schiettezza che mi sembra che stasera sia venuto ben fuori. Sì, sì, c'era. Infatti io vorrei ringraziare Andrea Rossa per lo spazio, insomma, è bello, insomma, quando stiamo a parlare più di una persona fuori e dentro onda, oppure... Ma io non sottovaluterei neanche la pezzatura, il discorso sulla pezzatura delle vacche. La pezzatura delle vacche, una rubrica che diventerà abbastanza fissa, fino alla pezzatura dei dromedari. Un giorno dirò la mia su questa cosa. Vabbè, bella, dai. Insomma, per ora non ci avete... Ah no, non ve l'ho chiesto, ma suonate, ci avete qualche data? Sì. Sì. Sia come barricate che sicuramente come DDM che come palcoscenico. Roma, fuori, metà. No, metà. Tutto in zona da noi. Mm-hmm. Guidonia. Ah, sabato suoniamo a Vicovaro. Con le barricate, 4 a Vicovaro. Ok. E per quanto riguarda DDM? No, DDM stanno in pausa estiva, diciamo così. Perché... Sì. Diciamo, abbiamo fatto l'ultima data acustica a Montecelio, l'altra settimana. Adesso diciamo date non ci stanno, però abbiamo registrato adesso sto disco. Noi parleremo a settembre, sì. Ottobre. Sì, sicuramente. Nuova stagione. Via. Vabbè, penso che abbiamo detto proprio tutto, no? Vabbè, allora la programmazione in diretta di Radio Onda Rossa continuerà ovviamente con l'approfondimento sulla pezzatura delle vacche. Che vi intratterrà pure nell'automatico per tutto il mese d'agosto. Però le cose un po' più serie, domattina si riparte con la replica del GR delle 19.30, come tutte le mattine, quando ci riesce di farlo. Alle 8, lettura delle prime pagine dei giornali, rassegna stampa cittadina, poi... Qualora ci fossero in questo periodo così di agosto vacanziero aggiornamenti e informazioni durante la mattinata, IGR che riusciamo a garantire per ora, mi sembra che domani a pranzo ci debba essere alle 13. E poi via via il palinsesto del pomeriggio fino alla serata e alla notte di Radio Onda Rossa. In versione appunto estiva, molta compagna automatica Zara, molte repliche e di tanto in tanto appunto aggiornamenti e spazi informativi. 61 80 40 01, il numero del conto corrente postale di Radio Onda Rossa, come testè annunciato. 0649 1750, il recapito telefonico. Noi ce ne andiamo. Sotto la luna comunista, non prima, che oggi è proprio piena, grande, enorme. Dicevamo, ce ne andiamo. Prima di andarcene salutiamo tutte e tutti coloro che ci ascoltano, costretti a condizioni di limitata libertà personale, il carcere e le carceri qui di Roma, per l'esattezza Regina Coeli e Rebibbia. E il minorile di Casal del Marmo. Il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, i famigerati CIE, gli obblighi di firma, quelli che gli hanno torto la patente, quante se ne inventano, per renderci la vita difficile. Bella così. Ci sentiamo mercoledì prossimo, probabilmente con quest'altra roba trash che stavamo così un po' negoziando con Elettrodo. Bella a tutte e a tutte. Dai. one.